Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuta ad una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. In realtà il film di cui parleremo oggi è il secondo film prodotto dalla collaborazione fra Pixar e Walt Disney rilasciato nel 1998, ovvero A Bug's Life. La trama vede come protagonisti degli insetti. Ogni anno una colonia di formiche è costretta a dare una grande quantità di cibo alle cavallette, per mantenere la loro colonia indipendente. Flick, una maldestra ma geniale formica, poco prima dell'arrivo delle cavallette danneggia il cibo raccolto dalla sua comunità, scatenando le ire di Hopper, ovvero il capo delle cavallette, che farà scattare un ultimatum per raccogliere altro cibo prima dell'arrivo dell'inverno. La comunità delle formiche è in subbuglio e Flick, per rimediare, decide di arruolare dei ribelli contro le cavallette, riuscendo solo a trovare 4 sgangherati insetti circensi. Avendo raccolto poco cibo e con il piano di ribellione andato in fumo, le cavallette occupano il formicaio schiavizzando tutta la popolazione. Flick, insieme ai suoi amici e con l'aiuto della regina delle formiche, riesce ad ingannare Hopper e a salvare la colonia, diventando il nuovo eroe del formicaio e creando un'alleanza alla pari fra cavallette e gli altri insetti. Il film venne rilasciato nello stesso anno in cui la DreamWorks distribuisce nelle sale un altro lungometraggio 3D basato sugli insetti, ovvero Zeta la formica. Fra i due studios nacquero subito varie accuse, soprattutto da parte della Disney e della Pixar, che imputarono colpevole di plagio il nuovo direttore della divisione d'animazione della DreamWorks, ovvero Jeffrey Katzenberg, che aveva abbandonato la Disney a causa degli screzi col CEO. Effettivamente è stato spesso affermato da entrambe le parti che ci sono state competizioni e rivalità riguardo il rilascio dei due film, anche se quello della DreamWorks è decisamente più di satira e più da adulti. Forse anche grazie a queste visibili tensioni, A Bug's Life ebbe un ottimo successo al botteghino, vincendo anche l'Oscar e un Golden Globe. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo ad una prossima puntata di Curiosità Animate.